Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ancora una volta questa sera parliamo di un progetto dedicato al monitoraggio ambientale in rapporto a eventi calamitosi. Infatti, quando si verificano eventi come alluvioni, terremoti, incidenti industriali piuttosto che eruzioni vulcaniche, molta della capacità di risposta, per esempio della protezione civile, dipende dalla disponibilità di informazioni precise e tempestive. Per esempio, dopo un terremoto è necessario stabilire il più rapidamente possibile l'agibilità di varie strutture, in particolare quelle pubbliche da cui dipende l'erogazione di servizi vitali, ospedali, scuole, caserme, ma anche strutture come le palestre in grado di ospitare eventuali sfollati. Questa sera allora parliamo di un progetto che prenderà il via nel 2016, nato da un'idea dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, in collaborazione con la Protezione Civile. Parliamo di un sistema di sensori che monitorerà in tempo reale la resistenza a un eventuale terremoto di scuole, ospedali e altri numerosi edifici pubblici strategici del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, Marco Mucciarelli. Buonasera a voi. Direttore del Centro Ricerche Sismologiche OGS, Mucciarelli, allora intanto ci ridescriva che sensori sono. Ma in realtà sono dei sensori abbastanza semplici, quello che più o meno tutti quanti abbiamo nel cellulare, si chiamano accelerometri MEMS, sono dei piccoli accelerometri che possono essere installati convenientemente anche su edifici per registrare le scosse di terremoto, sia piccole che grandi, e questo ci servirà appunto per poter avere la disponibilità di una rete diffusa che inizierà dal Friuli Venezia Giulia, ma contiamo possa anche espandersi, per avere quindi molti edifici monitorati ed avere immediatamente dopo un terremoto una conoscenza di quella che è stata la risposta e il comportamento dell'edificio durante la scossa e fornire quindi questo dato per le elaborazioni necessarie alla protezione civile. Cioè, in pratica voi da come vibra riuscirete a capire se un terremoto ha danneggiato in modo grave un edificio oppure no. Ma ci sono, se ho capito bene, anche altre informazioni che potrete raccogliere su questi edifici durante la loro vita ordinaria, diciamo, anche senza bisogno di terremoti violenti. Sì. Esatto, sia dal rumore ambientale sia prevalentemente da piccoli terremoti nelle vicinanze o da forti terremoti più lontani, sarà possibile studiare quella che è, diciamo, il comportamento in tempo di pace dell'edificio, perché praticamente ogni edificio ha una sua frequenza di vibrazione, noi non ce ne accorgiamo a meno che non andiamo all'ultimo piano di un grattacielo molto alto, che gli edifici che ci sembrano tanto solidi in realtà si muovono di molto poco, ma si muovono con una loro frequenza, e questa frequenza è una specie di firma che ci dice se l'edificio è sano, si sta danneggiando o si è danneggiato, quindi vedere le variazioni della frequenza con la quale un edificio si muove ci può dare informazioni, quindi conoscere la sua frequenza in tempo di pace è fondamentale, perché poi in caso di forte terremoto vediamo se si è spostato, in che percentuale da questa frequenza, e si capisce se l'edificio è rimasto intatto. Ok, se si comporta come prima vuol dire che in linea di massima ha resistito bene al sisma, se ha cambiato comportamento questo diciamo che è un brutto segno. Inoltre voi in qualche modo riuscite così a capire se un edificio realisticamente sarà in grado di sopportare un terremoto prima che magari sia colpito, e allora magari si va anche a intervenire con della manutenzione mirata, che sarebbe l'altro obiettivo, no, di questo progetto. Senta, costi, quanto costa? Perché naturalmente il tema non è rilevante. No, ma difatti il problema è che di monitoraggio degli edifici se ne parla da molto tempo, però fino adesso non era possibile, perché diciamo che un sistema standard costa fra i 10 e i 15 mila euro. Quello che abbiamo nel cellulare costa qualche decina di euro, ma non è abbastanza preciso. Quello che abbiamo fatto con industrie del settore che si occupano appunto di sensoristica è quello di cercare il modo di avere uno strumento che costasse un decimo dei sistemi tradizionali, permettendo così di monitorare 10 volte di più edifici. Noi contiamo che con meno di 1000 euro sia sostanzialmente possibile fare un'installazione su un edificio e anche portare via il dato in via telemetrata, perché ovviamente ci serve un tempo quasi reale di conoscenza della situazione. Ecco, quindi insomma sapere a 1000 euro se una scuola resisterà a un terremoto, soprattutto se ha resistito una volta che è avvenuto, per non parlare di ospedali, prefetture, palestre, potrebbe probabilmente valerne la pena. Senta, quali sono i prossimi step? Intanto state lavorando col Friuli Venezia Giulia, lì quanti edifici monitorerete? Allora, diciamo in partenza saranno poco meno di un centinaio, poi stiamo predisponendo un progetto europeo per chiedere finanziamenti ulteriori. La regione Friuli ci tiene molto perché l'anno prossimo è il 40° anniversario del terremoto del Friuli, e quindi si vuole partire, diciamo, con un paradigma diverso di monitoraggio dopo tanti anni. Poi ci sono altre, la provincia autonoma di Trento, la regione Veneto, la regione Basilicata, con la quale stiamo appunto discutendo come poter iniziare queste attività, che sicuramente andranno avanti nei prossimi anni insieme anche ad altre gambe, diciamo, del sistema di monitoraggio che cercheremo di mettere in piedi, tipo l'early warning, l'utilizzo dei volontari e di protezione civile in tempo reale per avere proprio un osservatore sul campo che ci confermi il dato strumentale. Diciamo che, buttandola sulla terminologia dello spionaggio, va bene l'elint, ma ci vuole anche un po' di humint, come sì, si può dire, di intelligence umana. Sono convinto che alla fine un occhio esperto sul campo, ben addestrato, è fondamentale. Quindi prima arriva meglio, essere già sul posto meglio ancora. Meglio ancora. Grazie Marco a Mucciarelli. Voi, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.